appuntamento con la Notte dei Miti, secondo appuntamento settimanale. Ciao a tutti, io sono Alex, Robertino al di là del vetro si occupa della parte tecnica, fa sempre gli scherzi a Fergal. Fergal, perché? Perché ti tratta così Robertino, eh? Ovviamente mi vuole tanto bene, c'ho una teoria che se le persone mi trattano male è perché mi vogliono bene. Secondo me ti vuol mandare via a casa subito, velocemente, allora ti taglia, ti sfuma, perché non vuole che tu faccia tardi, vuole che tu dorma 8 ore e poi domani mattina devi anche venire in onda, quindi giusto. Sì, però io non ti posso lasciare, Alex, perché io so di quali miti ti tratti ed è mitico stasera, quindi io sto qua. Lo so anche perché, diciamo, lo sveliamo anche un po' il mistero, mi hai portato Elton John in studio. Sta qua pronto a suonare il pianoforte e cantare per voi. È vero, è vero. Allora, senti, tu come definiresti Elton John? Perché io ho fatto un po' il sommario e avevo un po' di difficoltà in qualche modo a definirlo. È il re degli eccessi, il simbolo. Re del cesso? No, calma. Che applaudi tu lì, al di là del vetro, Robertino? Ah no, il re degli eccessi, il simbolo degli eccessi, non... È vero, Elton ha una storia pazzesca proprio, ha provato di tutto nella sua carriera e finora sta pure facendo delle cose strane, tipo questa asta con tutte le sue macchine, eccetera. Poi basta guardare com'era, come si vestiva, tutte le, come si dice, le parrucche. Parrucche che portava, che... proprio re dell'eccesso, sì. Beh, a proposito di parrucche, ne ha una da poco fissa perché era quasi calvo, adesso sfoggia questa bellissima capigliatura. E poi, ecco, Fergal, è giusto che la sua vita è sempre stata l'insegna di sesso, droga e rock and roll? Elton John, sex, drugs and rock and roll, sì. Sì, potremmo dirlo. Poi magari è candidato perfetto per il sex, drugs and rock and roll. Si sono aggiunte altre cose, altre divagazioni. Tra l'altro si è aggiunto anche internet. Questa sera doveva esserci un concerto per la prima volta in tutta la storia della rete, pay per view, su internet. C'era qualche problema, vi diremo se è andato in porto, eh? Ah, ok, io non sapevo di questo. Se qualcuno ce lo dice, tu quindi rimarrai un po' qui. Sì, rimane in zona, anche perché dedichiamo 2 ore a Elton John, quindi tu mi devi un po' aiutare ogni tanto. Mitichi! Aprire la prima ora di Mitichi sull'appuntamento di questa sera con la Notte dei Miti, 2 ore dedicate a Sir Elton John, alla sua musica, al gossip di cui è stato protagonista, a tutte le sue sparate, possiamo veramente dirlo. E avrò anche un ospite che è arrivato direttamente dall'Inghilterra per parlarci di Elton John, per conoscerlo ancora meglio. Quindi continuate a segnalarci le vostre canzoni preferite di Elton John, 348-6619-461. Siete dei Miti ancora, ciao a tutti, da Alex che vi parla. E noi parliamo e ascoltiamo soprattutto la musica di Elton John fino a luna, mitico. Questo martedì abbiamo deciso di dedicare 2 ore a lui perché abbiamo anche un ospite che viene dall'Inghilterra, che ci parlerà proprio di Elton John perché lo segue da tanto. Tra l'altro devo dire, assomiglia veramente in maniera impressionante proprio a Elton John, quasi mi è venuto il dubbio, ma sarà lui. Poi però parla perfettamente italiano perché vive a Firenze da un bel po' di tempo, si chiama Nick ed è qui accanto a me. Ciao Nick, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti, buonasera Alex. Allora, innanzitutto da quanto tempo sei a Firenze, perché parli perfettamente italiano? Firenze sono più o meno 9 anni. 9 anni. In Italia 12 anni. Da 12 anni. Prima abitavo a Milano. E sei originario di dove esattamente? Sono della costa sud dell'Inghilterra e sono nato a Brighton. Che sia abbastanza conosciuto. E poi di Bournemouth, che è anche un altro posto conosciuto per le scuole di lingue. Ecco. Tra l'altro, a proposito, c'è la mia teacher, sì. L'English teacher, che si chiama Susan, è proprio di lì più o meno, di Brighton. Sì, sì, sì, infatti. La saluto, però in questo momento è lì proprio per le vacanze. Vabbè. Sì. Allora, parliamo di Elton John. Quando è che hai cominciato a seguire Elton John? Quando ti è nata questa passione? Ma io mi ricordo, avevo 13 anni, avevo i miei genitori erano molto severi, non mi facevano ascoltare la radio e la musica pop. E però un giorno ho sentito la canzone che poi sentiremo adesso, Goodbye Yellow Brick Road, e mi ha fatto scoprire non solo Elton John, ma anche tutto il mondo della musica rock e pop. Allora per me è una canzone, diciamo, fondamentale. Tra l'altro devo dire che tu assomigli molto a Elton John. Ma forse perché continua a mangiare troppo. No. Si sta troppo bene in Italia, allora ingrasso. Senti, anche lui. È mai successo che qualcuno ti abbia preso per Elton John per strada? Non ma so, no, in Italia. Fino ad ora no. Jimmy Connors una volta, il tennista, un tempo fa. Ma no, mi sono accorto io, questa è la cosa più preoccupante, che ho visto, oddio, sto cominciando a somigliare a Elton con questi occhiali nuovi che ho. Allora mi sono un po' spaventato. Comunque avere i suoi soldi e il suo talento non sarebbe male. Infatti, noi ne parleremo, perché ho selezionato un po' di notizie dal gossip degli ultimi anni che rendono proprio l'idea di quanti soldi ha Elton John, di quanti ne sperpera, di quanti sì. ne ha persi, e parleremo soprattutto del suo talento. È una cosa che mi fa molto riflettere, che tu sei qui in qualità di esperto, ci racconterai un po' qualche aneddoto sulla carriera di Elton John, ma anche lui ha avuto qualche difficoltà all'inizio proprio della sua adolescenza, perché il padre non gli faceva ascoltare musica americana, glielo impediva. Ti risulta questa cosa? Quindi sì, anche tu hai avuto un'altra somiglianza. C'è quindi insomma una somiglianza, però in effetti il padre di Elton John era un ufficiale della Royal Air Force, e quindi non c'era mai a casa, allora lui di nascosto sentiva Elvis Presley, Buddy Holly, insomma un po' di musica, e questo gli ha permesso di formare il suo grande talento, no? Sì, è vero. E poi lui è della zona del nord di Londra, siamo appena nella zona di Watford, dove lui anche la sua squadra di calcio dove allena un certo Gianluca Vialli. Infatti. E tra l'altro non si chiama Elton John, diciamo il suo vero nome qual è? È Reginald Kenneth Dwight, però io ho sentito anche che c'era un nome di Hercules da qualche parte, perché c'è una canzone che si chiama Hercules. E avevo sentito c'è anche questo nome, però questo non sono mai riuscita a verificare. A verificarlo. Per adesso, diciamo, i biografi, quelli là ufficiali, questo nome non l'hanno inserito, ma noi lo scopriremo, insomma, sicuramente fino a luna scopriremo tante cose di Elton John. Dunque, se volete segnalarci la vostra canzone preferita di Elton John, che ascolteremo tra poco, anzi fino a luna, ascolteremo chiaramente le più votate, 081 631 631 oppure 081 546 1212, numeri per chiamarci e per venire in diretta con noi. Mentre se volete limitarvi a inviarci un messaggio SMS, il numero è il 348-66-19461, sempre appunto per richiedere canzoni di Elton John. Allora, adesso cosa ascoltiamo? Quello che dicevo prima, Goodbye Yellow Brick Road, l'album Goodbye Yellow Brick Road, che è stato un doppio album che ha avuto un successo enorme, e contiene anche Candle in the Wind, Benny and the Jets e Saturday Night's Alright for Fighting. Però magari cominciamo con questo qui. Perfetto, Elton John è di scena nella notte dei miti su Radio Kiss Kiss. Mitica! protagonista Elton John fino all'una. Continuate a segnalarci le vostre canzoni preferite di Elton John al numero 348-6619-461, numero per i messaggi SMS, oppure chiamandoci allo 081-631-631. E dicevo che questa sera Elton John è di scena in Turchia, probabilmente per questo evento internet molto importante, un concerto trasmesso in pay per view, che significa che tutti coloro che vogliono collegarsi con il sito che trasmette il concerto devono pagare un biglietto virtuale che costa soltanto 27.000 lire. Ecco, l'unico problema è che non ci sono tanti navigatori che hanno acquistato il biglietto, e quindi probabilmente il sito che si occupa di questo evento registrerà il concerto e poi lo venderà nel corso delle prossime settimane a chi vorrà scaricarlo, quindi con un download, e così in qualche modo Elton John potrà guadagnarci, perché lui ha secondo me un bel fiuto per gli affari. E allora parliamo ancora con Nick, che è il nostro ospite esperto ma soprattutto appassionato di Elton John. Com'è Elton durante i concerti? Perché tu sei stato diverse volte in concerto a vedere appunto una serata di Elton John, giusto? Sì, l'ho visto 4 volte adesso, prima a Londra, poi l'ho visto a Milano, poi a Pesaro 2-3 anni fa con Fergal, nostro Fergal, e poi l'anno scorso a Brescia quando lui ha suonato da solo. Per me sono sempre contento di vederlo in concerto, non mi ha mai deluso, e poi conosco tutte le parole eccetera, dunque rimango sempre soddisfatto, diciamo. Senti, tu il primo concerto che hai visto in che periodo, insomma? Verso 88, 88, 87. Quindi fine anni 80, diciamo. E l'ultimo concerto qualche mese fa, no? Sì, ma diciamo l'anno scorso a Brescia, sì. E c'è stata un'evoluzione nel modo di esprimersi live di Elton John che tu hai potuto notare? Ma diciamo è stato interessante vederlo con un gruppo, e con il famoso Davey Johnston alla chitarra, che è molto bravo, sempre rimasto con lui. E poi anche Ray Parker, e poi dal vivo, da solo, e sì, è bello vedere la differenza come la presentazione. Non posso dire che ho preferito l'altro. Tutto molto bello. E sappiamo che Elton John è una persona molto lunatica, no? Sì. In una di queste serate che tu hai visto, è successo qualcosa di strano? Non so, c'è stata una sua sparata? Tra un po' racconteremo un episodio. Sì, no, l'unica cosa a Brescia, mi ricordo che si è rotto, non so, forse c'è stato un problema con le luci. E ha dovuto smettere per 10 minuti, mi sembra. Però è rimasto di buon umore. Poi ha ripreso senza problemi, dunque quella sera lì tutto ok. Tutto ok, sì. Quindi poi è ritornato. Pensate, sì, invece che a Lisbona l'anno scorso, quindi a settembre del 2000, Elton John se n'è andato invece. È successo qualcosa che l'ha un po' infastidito, nel senso che era a cena al casinò Estoril di Lisbona, e poi ci doveva essere questo concerto a seguire questa cena. Fatto sta che dopo la cena si è accorto Elton John che il pubblico che era rimasto in sala si era ridotto al numero di sole 1200 persone. E questa cosa evidentemente l'ha un po' infastidito, ha detto che andava a prendere una boccata d'aria e poi invece non è più tornato, e quindi insomma questa cosa è rimasta abbastanza impressa alla gente, che tra l'altro per la cena e il concerto aveva sborsato, pensate, 500.000 a testa, e quindi insomma in qualche modo voleva sentire il concerto, che poi non c'è stato, ma poi insomma è stato in qualche modo recuperato nel corso delle giornate successive. Quindi questa è una delle tante sparate che dimostra il bel caratterino di Elton John. Allora continuate a votare le vostre canzoni preferite via SMS, ricordo il numero 348-6619-461 oppure 081-631-631 per chiamarci. Adesso cosa ascoltiamo, Nick? Allora, ho scelto Philadelphia Freedom, che è una canzone che non è mai apparsa su un album normale, solo su un Greatest Hits, per la prima volta mi sembra su Greatest Hits numero 2. E per me mi piace tantissimo. Va Philadelphia bene. Freedom. L'ascoltiamo su Radio Kiss Kiss, Elton John. Mitici. Times have changed. I say, the more my work gets done. i Beatles ricantata da Elton John, Lucy in the Sky with Diamond, per aprire un'altra ora di Meet the Kids su Radio Kiss Kiss, un'altra ora dedicata al grande Elton John, il mito per eccellenza del pop, del rock, il mito dell'eccesso. E per parlare di Elton John ho chiesto a Fergal di rimanere ancora un po', perché deve un po' raccontarmi quello che sa di Elton John e in particolare i suoi legami con i Beatles. Allora grazie ancora a Fergal che è rimasto qui dopo Love America. È un piacere, perché stai facendo sentire veramente la bella musica questa sera, Alex. E poi ti volevo raccontare la mia storia preferita di Elton John, perché sono un fan di Elton John prima di un certo periodo, ma non molto adesso. Però lo stimo molto per il fatto che lui è stato un grande grande amico di John Lennon. E infatti non tante persone sanno questo fatto, che Elton John è il padrino del figlio di John Lennon, di Sean Lennon, il figlio di John e Yoko. Il padrino è Elton John. John Lennon nel 1974 stava vivendo un periodo abbastanza brutto, era un ubriacone e era separato da Yoko Ono e non voleva suonare più. Però poi ha incontrato Elton John ad una festa e Elton gli ha detto: dai, perché non viene a suonare con me a Madison Square Gardens la settimana prossima? E John ha detto: non lo so, non lo so. Finalmente però Elton è riuscito a convincerlo, e perciò quella sera è salito sul palco con Elton John, John Lennon, and hanno suonato questo, Lucy in the Sky with Diamonds, anche Whatever Gets You Through the Night, un hit di John Lennon, e anche I Saw Her Standing There, un hit dai Beatles, che è strano che l'abbiano suonato, perché è scritto da Paul McCartney ed era strano che John Lennon l'avrebbe suonato. Allora, dopo questo grande successo, John Lennon è sceso dal palco e ha trovato Yoko Ono, che li aspettavo, e loro si sono rimessi insieme proprio questa sera. E quindi in un certo modo si può dire che che Elton John ha salvato la vita a John Lennon in quel periodo 74, perché e perciò lo stimo molto. Era magari avviato in quel periodo un po' all'autodistruzione. Tra l'altro Elton John ha duettato con tantissima gente, ha fatto concerti con tantissima gente, forse soltanto con Tina Turner non è riuscito a fare un concerto, perché a un certo punto hanno litigato e quindi non hanno suonato insieme. Per esempio Billy Joel, oppure ancora tanti altri, Ronan Keating, Eminem, ma proprio dico proprio nel recente Grammy Awards di quest'anno, nel febbraio, hanno cantato insieme e sono stati un po' attaccati anche per questa esibizione, visto che Eminem è un po' omofobo, possiamo dirlo, e invece Elton John è dichiaratamente gay, no? Infatti poi ha suonato pure con Anastasia, quella ragazza con la bella voce, e poi ricordiamo negli anni 70 con Kiki D, quando hanno fatto Don't Go Breaking My Heart, una versione che ha fatto pure con i Spice Girls, non lo so se l'abbiano registrato, però su un special televisivo l'avevo visto. Quindi veramente sì, tanti duets, però il primo e il più importante per me è quello che ho detto con John Lennon chiaramente. Tra l'altro Elton John ha tantissimi amici più o meno importanti, e pensate che qualche anno fa si hanno fatto un sondaggio ed è risultato il più invitato del Ream, cioè il VIP che tutte le feste vogliono avere proprio come ospite. Questo anche adesso che lui si è dichiarato lucido e non beve più. Infatti, pensate, su 250 ricevimenti organizzati, Elton John ha partecipato a ben 187 di questi, ovvero il 74,8% del totale. Questo perché è una persona simpatica, sa suonare, sa cantare, sa intrattenere con, diciamo, il suo carattere, eccetera. Inoltre, ogni festa in cui c'è Elton John sicuramente va a finire nelle pagine di gossip della stampa rosa o meno. E non ci sarà il caso che rimaniamo senza birra a quella festa, perché Elton non beve più. Importante avere un ospite così. Infatti. Allora, senti Fergal, qua arrivano messaggi al numero 348-66-19461 di amici che vogliono ascoltare canzoni, quindi continuate a votare, ripeto il numero 348-66-19461 con un messaggio SMS, oppure chiamandoci direttamente allo 081-631-631. E c'è Brad che scrive: mi sono appena fidanzato, vorrei dedicare la canzone più romantica di Elton John a Fabiola e dirle ti amo, vi prego accontentatemi, siete i numeri uno. Allora, quale canzone di Elton John vogliamo mettere a Brad? Allora io la passo al microfono a Nick adesso, perché lui è sicuramente più esperto di me. Perfetto, Nick. Ma allora diciamo deve essere la cosa più romantica, Your Song, che con questa canzone ha avuto il primo grande successo e si trova sull'album omonimo Elton John. E semplicemente credo che sia per tante persone la canzone più romantica che esista. E allora la sentiamo in una versione live, giusto? Sì, live in Australia con il Melbourne Symphony Orchestra, È una versione particolare, molto piacevole. Del 1986. L'originale chiaramente del 1970. 70. Your sì. Song, Elton John, su Radio Kiss Kiss. Mitichi. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling shoe. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is when you're in the world. Kicked out the marks, but a few of the verses, all they got me quite cry. But the sun's been quite kind, but it rolls in storms. So people like you that keep it turned on. Elton John e dei soldi. Beh, pensate che è ricchissimo. Qualche anno fa, anzi no, io direi proprio qualche giorno fa, verso aprile di quest'anno, ha avuto una causa, ha perso insomma una causa 10 miliardi. Beh, sapete come ha reagito Elton John a questa perdita? Ma per me, ha detto, 10 miliardi sono una goccia nell'oceano. Pensate, a centinaia di miliardi, quindi effettivamente 10 miliardi non sono che l'1% del suo patrimonio. E dopo che aveva dichiarato questa cosa della goccia nell'oceano, ha chiesto ai giornalisti di non disturbarlo perché doveva finire una partita di tennis e poi si sarebbe occupato dell'argomento. Allora, Nick, è un aneddoto, un po' una leggenda, pensi che sia vero? Sì, no, ma lui aveva anche delle collezioni di assurde, di occhiali stravaganti, e poi mi ricordo anche le scarpe proprio stranissime. E poi mi sembra però, difatti, quando aveva bisogno dei soldi, anche lì ha messo all'asta forse. Sì. Dunque sì, sicuramente ha avuto questi problemi. Lui magari, non dice tutta la verità quando lui dice una goccia nell'oceano. Sì, però tra l'altro so che ci sono degli economisti davvero che studiano le spese quotidiane giornaliere di Elton John e pensano che ai ritmi di spesa di Elton John lui dovrebbe arrivare alla bancarotta nel giro di pochissimo tempo. Ah, sì? E allora magari insomma lo fanno sapere, lui si rende conto di avere forse le mani un po' bucate e quindi mette all'asta poi gli occhiali, Rolls Royce. Qualche tempo fa ha venduto, non so, la sua Rolls Royce con tutto il suo garage di macchine lussuosissime che ha tenuto, che forse ha collezionato proprio perché magari non può usarle, perché dice io sono impegnato in giro per il mondo, magari le do a chi può godersele più di me, e però in fondo è anche un modo per avere altre entrate. Sì. È stato definito il re dello shopping, perché come lui non spende nessuno e poi forse invita anche gli altri a spendere, quindi un bel testimonial, no? per i saldi a Londra per esempio. sì. E poi come dicevamo prima, lui è anche proprietario di questa squadra di calcio, il Watford, sì, che come dicevo è allenato da Gianluca Vialli, ex allenatore del Chelsea, la mia squadra, la tua squadra preferita tra l'altro. Sì. E il Watford ha avuto diciamo fortune alterne, c'è stato per un periodo addirittura in Champions League, poi in Serie A, adesso in Serie B, quindi insomma Elton John spera che con Gianluca Vialli le cose vadano meglio, no, per la sua squadra. Penso che ci sono delle buone possibilità, perché Vialli secondo me è molto bravo e anche con i soldi di Elton John magari ce la fa. Il problema è rimanere in Serie A, magari ci arriva e poi torna subito giù. È una squadra famosa per un calcio molto diretto, diciamo, però penso con Vialli questo cambierà. Quindi speriamo che il nostro gioco Vialli, tra l'altro Elton John ha apprezza molto Vialli, ha dichiarato di essere molto eccitato per il fatto che sarà lui ad allenare la sua squadra, mentre Vialli in risposta ha detto io mi sono limitato a chiedere tutti i dischi di Elton John, quindi potrò avere tutti i suoi dischi e li ascolterò, e poi non ha aggiunto altro. Vialli molto così diplomatico, possiamo dire. Allora, la prossima canzone che ascoltiamo che canzone è? Io ho scelto dal 1983, I guess that's why they call it the blues, e dal disco Too Low for Zero. Perfetto, Elton John nella notte dei miti di Radio Kiss Kiss. Mitiche. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. More than ever, I simply love you. More. no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still be. Duetto George Michael ed Elton John insieme nella notte dei miti. Noi stiamo celebrando Elton John, George Michael l'abbiamo celebrato qualche settimana fa. Don't Let the Sun Go Down on Me, un pezzo veramente molto bello che ci permette ancora di parlare di Elton John. Noi lo faremo fino a luna e voglio ancora ricordarvi che se volete continuare a votare le vostre canzoni preferite di Elton John, quelle più votate saranno trasmesse entro le luna chiaramente, quindi 348 66 19 461, questo è il nostro numero per i messaggi SMS, mentre per chiamarci il numero è lo 081 631 631, oppure lo 081 546 1212. E tra l'altro abbiamo parlato di stranezze, di eccessi, di sparate, io le definisco così, però parliamo anche un po' di musica, perché è certo che il prossimo 2 ottobre Elton John pubblicherà un nuovo album di inediti che si intitolerà Songs from the West Coast, che arriva proprio 4 anni dopo il suo ultimo album di canzoni inedite, chiaramente. praticamente, che era The Big Picture, perché poi successivamente ha curato un po' di colonne sonore. E allora, insomma, vediamo un po', sentiamo da Nick, insomma, come vive questa attesa, questo ritorno. Pensi che, insomma, Elton John ha ancora qualche cosa di nuovo da raccontare ai suoi fan, oppure non lo so, qual è la tua opinione riguardo al suo punto della sua carriera, ecco? Questa è una domanda difficile, perché io sarei d'accordo con Fergo, quello che diceva, perché devo sinceramente preferisco le canzoni che ha scritto, diciamo, negli anni 70-80 magari, però sempre quando pubblico un nuovo disco c'è qualche gioiello lì dentro. Difatti tra un po' sentiremo Sacrifice, che è stato per me un ritorno alla forma, diciamo, degli anni precedenti. È sempre un evento, un nuovo disco di Elton John. Credo che il primo singolo sarà I Want Love, se non mi sbaglio. Da questo Songs from the West Coast. E vediamo, sì, cosa viene fuori. Certo, tra l'altro, per coloro che, insomma, hanno in qualche modo avuto qualche anticipazione anche dal sito ufficiale di Elton John, sarà proprio un ritorno al suo primo periodo musicale con una assonanza con i lavori degli anni 70, quindi potrebbe essere qualcosa di interessante dal punto di vista tuo. E tra l'altro ci sono anche delle collaborazioni interessanti con addirittura Stevie Wonder, che parteciperà alla realizzazione dell'album, e ancora altri produttori che hanno già lavorato per esempio con Madonna o ancora con Sheryl Crow. E il tutto, naturalmente, dovremo aspettarlo, perché la data di uscita è il 2 ottobre del 2001, di quest'anno. Sì. Allora, hai anticipato il disco prossimo che ascolteremo. Vuoi raccontarci di cosa si tratta? Cioè, che canzone è questa che appunto sentiremo tra pochissimo? Sì, Sacrifice viene dal disco Sleeping with the Past, del 1987, se non mi sbaglio. 89, scusate. E questo è stato il suo primo numero uno dopo tutti questi anni di lavoro in Gran Bretagna. Prima c'è stato uno con Kiki D, Don't Break My Heart, come diceva Fergal, però da solo è il primo numero uno che ha avuto. E così anche per lui credo che sia stato un successo molto importante. E di questo anche ha fatto una versione Sinead O'Connor. E come dicevo, sì, viene dal disco Sleeping with the Past. Direi di ascoltarlo allora. Sacrifice, Elton John, nella notte dei miti di Radio Kiss Kiss. When jealousy burns, cold. concludere questa seconda ora di Mythikis e dunque concludere anche il nostro speciale dedicato ad Elton John. Io naturalmente voglio ringraziare tutti coloro che hanno inviato messaggi SMS, anche coloro che purtroppo però insomma non hanno potuto ascoltare la loro canzone, perché abbiamo scelto le canzoni più segnalate sia per telefono che appunto tramite messaggi. E noi concludiamo questa nostra ora con un grande pezzo, no? Con il pezzo che ha dato grande successo Elton John, tra l'altro ha vinto, cioè insomma come record è stato il singolo più venduto nella storia della discografia di tutti i tempi, addirittura ha superato White Christmas, che era il disco più venduto fino al 1997, quando Elton John ha interpretato Candle in the Wind e l'ha in qualche modo dedicato a Lady Diana, che era morta proprio in quell'estate, sì, giusto? Sì, sì, l'originale era del 1973 e poi come dedicata a Marilyn Monroe. E poi, come sappiamo tutti, l'ha riproposto per Diana, ha cambiato certe delle parole, però ha detto che lui non suonerà mai più quella versione lì in pubblico, non so se lo fa a casa. comunque la versione, ma per me la versione originale è sempre quella originale. Quella originale, infatti. Anche un altro grande classico del quel disco, Goodbye Abbey Road. Infatti, perché spesso succede quando ci sono questi grandi successi, poi ti rimangono attaccati come un marchio e quindi poi l'artista in qualche modo risulta un po' vittima anche del grande successo, no? Tra l'altro è l'unico brano che ha avuto successo negli anni 80, 90 e anche anni 70, per iniziare in tre decenni diversi. Infatti, quindi veramente un pezzo da record che conclude queste due ore di Mythikis che abbiamo dedicato a Elton John. Allora, avete sentito anche Fergal che si è inserito per salutare. Naturalmente ti devo ringraziare, Fergal, per non solo per averci portato Nick, che è stato un esperto e ci ha dato una grande mano, ma anche perché tu hai fatto un lavoro proprio di redazione, hai cercato i dischi dell'archivio, quindi sei stato molto attivo fino all'una, ecco, quindi ti devo ringraziare. No problem. E poi questo pezzo ricordo a tutte le belle ragazze, perché all'inizio era dedicato a Marilyn Monroe, non lo dimentichiamo, quel film idol che devi trattare una sera, Alex, di Marilyn Monroe. Bene, ne abbiamo già parlato. Vabbè, sono tre mesi, quindi giustamente lui non può ricordarsi tutti i miti che abbiamo di cui abbiamo parlato, insomma. Allora Nick, io ti ringrazio ancora. Radio Kiss, grazie ascoltatore, chiaramente. E vabbè, naturalmente continua a seguirci e speriamo. Senz'altro, è stata un'esperienza molto, molto piacevole. Quindi aver celebrato degnamente il tuo idolo, il tuo mito, Elton John. Davvero. Allora, si conclude appunto questo momento di Mythikis. Noi continuiamo naturalmente fino alle 2 parlando tra pochissimo di Miss Italia, però insomma è chiaro che dobbiamo ascoltare adesso Candle in the Wind. Su Radio Kiss Kiss arriva Elton John. and those around you call. Yes.